comodi e averci ricolte dei coglioni. Ma l'erba cattiva cresce. Però ragazzi, il trio peggiore dell'umanità, se unisce le loro teste, non raggiungono la licenza elementare. La loro reputazione è alta. Vaffanculo agli stronzi, sempre questi coglioni, ste merde che vanno in giro di notte. Ma che messaggio mandate ai ragazzi voi? Dopo aver fatto fallire una web radio, ci riprovano. Pensavamo che la persona fosse chiusa, sigillata per sempre. Ma invece... Open Gangnam Style! Il Clan 05 Group presenta Non aprite quella persiana, il programma più idiota che idiota non si può. Vai! Last time I checked, you don't know me. I'm going out tonight, my body's feeling right. Without you by my side, don't need you by my side. Cause you always wanna leave, and I'm missing my ladies. Passenger to driver's seat, baby, pass me my keys. The last time I checked, I could do for myself. I can walk all on my own, and I don't need your head. You the last time I checked, I could do for myself. I'm a big girl, my baby, and I don't need your head. Una produzione Buona Movie Maker, con la collaborazione di sempre Buona Movie Maker di prima, presenta un uomo che dice ciò che pensa, e quel schifo merda, un uomo amante del rischio, compare dai porta sto minchione, un uomo che agisce nelle tenebre della notte, Rosetta piccia sta minchia di luce, non si vede niente. Batman. Siamo a Las Vegas, nei quartieri più malfamati di Milano, in provincia di Taranto. Ah ah ah, stanotte realizzerò il punto perfetto. e finalmente sarò ricco sfondato. Ah, fammi chiudere un negozio, va, e finita un'altra giornata. Fermo, non fare scherzi e dammi tutti i gioielli che hai. Gioielli? Ma questa è una rosticceria. Vabbè, fa lo stesso, caccia la grana. Mamma, ti scongiuro, salvami. Fermo, maledetto impostore. E tu chi minchia sei? Sei anche cieco, oltre ad essere un mona. Sono Batman, minchione. Batman, e chi l'aveva riconosciuto quel vestitino leopardato? Leopardo, minchia, ma ho confuso il pigiamino di pile con la mia divisa, cazzo. Sparisci, Batman, non conti più un cazzo in questa città. Questo lo dici tu, fatti sotto, figlio di puttana. Devo dire una cosa però. Cosa? Quella rosticceria era davvero piena di grana. Hai ragione. Te avevo detto io che era un grosso affare. Vabbè, va. Ora vado, che si è fatto tardi. Vado a bermi un caffè latte e torno. Porco Dio! Vaffanculo! Dio porco! Dio porco! Vaffanculo! Porco Dio! A volte gira dentro un'idea di vaga identità, la voce che mi parla minuto poi si fermerà. Come vuoi non mollare mai. Suona, come vuoi non mollare mai. Forse arriverai. È una questione di karma, lo sai. Vedo che da noi ci sono, ci sei. Ora, come sai? Ora, come noi? Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata per uomini e donne speciale vecchi. Il signor Maria Filippo, soprattutto uomini e donne speciale vecchi in gatto matte. Ovviamente è una cosa qualche se non la faccio la manco l'altra, ma neanche non lo sorde. è pertanto il normale cafazzo. Comunque, facciamo tasse ai vecchi prima che finisce l'auditorio e facciamo tasse la prima coppia di questa sera, che sono Giovanni Ciancato e Rossine Dimestrazioni. Continue. Ecco, calma, calmate, mamma che c'è tazzo, calmate. Buonasera, ma che bella gente, Maria Bella, ciao. E fermate, state vedendo una poca. Allora, signor, quasi tutto alle parti, tra l'altro. Signor Giovanni, come vanno le cose con la signora Maria Rosanella? Come vanno? Come fa un buon acchero che è rimasto un biscotto? Mi è possibile che a 78 anni chissà che non sembra la mestruazione? Non lo spiega, ma che è finito? Signora Rosaneggia, cosa ha da dire in sua discolpa? Ai, Maria Giammoi, che ti posso dire? Che pur volendo non ce la fa manco. Se c'è di una, tu mi dite di mio, che... Madonna, scusa, grazie, ma che signora Doc... Che ci va a fare, che si fa di curare, che si cae il mobile per dire? Di cura la mia, ma vedi tu sta saponera brutta, che 70 cazzi ti portate a mangiare, ti portate a Roma, a Milano, a Venezia, e mi hai pagato la pentina di mattina, ma è già finita, ma vedi tu, io te amo. E via tu, ma ti sei vista allo specchio, ma che non è andata lì, c'è il mio coglione lippo, poi ho preso i piccatini in guardia, non la chita, comunque. Che c'è da capo? Perché sei proprio uno schifo! Alla faccia di un cuccio, un bernacco che parla andando per la bocca di Sky! Fatto lì, si fa proprio schifo, sei proprio un morso! Io tutti i canali, come... Madonna mia, mi sento male! Ricordatevelo a Cecuzzo, ricordatevelo, per favore chiamate a Cecuzzo l'onoranza fune, poi che hai avanti quel programma e facciamo entrare la favolosa cubista. È pronta la favolosa cubista? Di cielo! Bello bombante perché la musica di cielo! Amo tutti! Gioca nel cielo! Sono! Dai! Uè, uè, uè! Perché vuoi che spinto su? Ma se tette ferme, io non lo so chi sta qua, io non lo so, mi ha fatto perdere lo segno, comunque. Attagnati che un attimo che ce ne sembra 80 anni come poi sembra all'altro mondo, tu lo sai che si c'è, comunque ti hai portato, ti voglio sistema perché ti voglio bene e ti hai portato una persona che ti vuole bene veramente, veramente, ma proprio forte. E ce n'è ancora una? No. Gabriele Arco! No, è il signor Girato! Girato di Paolo Imbacato! Un grande allevatore di zimme! Facciamolo entrare! Buonasera a tutti da Cindy questi capelli! Oh, ma che casetto! Ma che ne dica la voce? Che cazzo vuoi? Ma pensa come invece per la voce, te c'è mala voluta! Tengo la voce un telegram! Voi mi voglio fidanzare! Sente, non ha capito. Angiole, un rombo cazzo, te no, tant'anni. E un po' sempre parla tutta la vita. Date fanno un giro e bava te n'affangolo. Oh lorda, come ti permetti? Muovi mi cacciano! Ma che tempo te te! Ma che demo! Allora, ragazzi, alla prossima puntata di Uomini.